America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. When I won in 2008, 47% of the American people voted for John McCain. They didn't vote for me. Bene, torno sulla questione della polemica sul famoso video di Mitt Romney, perché perché ci sono stati un po' di sviluppi negli ultimi giorni, sviluppi sul piano della reazione dell'opinione pubblica, sviluppi sul piano dell'approccio che le varie campagne elettorali hanno avuto, sviluppi direi piuttosto importanti a due settimane dal dibattito presidenziale che potrebbe essere decisivo, il dibattito del 3 ottobre. Ma vediamo intanto quali sono stati i primi sviluppi. One of the things I've learned as president is you represent the entire country. My expectation is that if you want to be president, you got to work for everybody, not just for some. Barack Obama, continuano le polemiche sul video in cui Mitt Romney diceva che il 47% della popolazione americana non pagava le tasse, si sentiva vittima e approfittava del governo americano. Beh, Obama, devo dire, è stato molto pater familias, ha cercato di essere comprensivo nei confronti di Romney, ha parlato al David Letterman Show, ha detto: una cosa che ho imparato da presidente è che si rappresenta l'intero paese, se si vuole essere presidente bisogna lavorare per tutti. Poi ha detto: capita qualche volta di fare degli errori, insomma, povero Romney, succede a tutti. Ecco, geniale Barack Obama, perché ha minimizzato, ne esce come un leader che non si mette a fare baruffa. Poi però su un altro fronte la sua campagna che ha fatto, ascoltate. Wow. I actually felt sick to my stomach. I don't like it. It shows that he's out of touch, that if he thinks that half of the country is feeling like victims. I wouldn't say so. Ecco, questo è uno spot televisivo che è stato immediatamente prodotto da un PAC, da un'organizzazione diciamo molto vicina a Barack Obama, non direttamente approvata da Barack Obama, ma chiaramente a vantaggio di Barack Obama. Si sente la voce di Mitt Romney, si vede Mitt Romney e si leggono le sue dichiarazioni, e dopodiché intervallate si vedono delle immagini di famiglie americane che rappresentano la classe media. Ci sono delle interviste con alcune persone che rispondono: io non mi sento affatto vittima, io lavoro, faccio del mio meglio per poter portare del bene alla mia famiglia, difficile a volte, ma certamente non merito di essere inquadrato in questa categoria che invece ha voluto definire Mitt Romney. Ecco, quindi una risposta durissima, devo dire, quella della campagna Obama, giustamente approfittato della situazione, e c'è da chiedersi se questo video non sia uscito a puntino con un colpo di genio strategico per imbarazzare Romney, per indebolirlo, proprio a due settimane dal primo dibattito elettorale, ve lo ricordo sarà il 3 di ottobre, e proprio nel momento in cui Romney doveva presentare il suo progetto economico. Comunque sia, la situazione per Obama è positiva, perché una ricerca molto accurata sui voti elettorali, vi ricordo che gli Stati Uniti prevedono un sistema di questo genere: ciascuno Stato ha dei grandi elettori e questi grandi elettori vengono mandati dallo Stato, a seconda che sia una vittoria repubblicana o democratica, ed eleggono il loro candidato. Quindi supponiamo che si vinca nel Wyoming, a quel punto il rappresentante del Wyoming per Obama voterà Obama, se invece vince per Romney voterà per Romney. Quindi la determinazione della presidenza avviene non per la maggioranza del voto popolare negli Stati Uniti d'America, ma per la maggioranza di questi voti elettorali, e la maggioranza è fissata sulla soglia di 270 voti. Bene, Obama, vi dicevo, a 40 giorni dal voto è in testa con 332 voti elettorali, secondo i sondaggi, le analisi e le proiezioni, contro i 206 di Romney. Dunque la distanza si è allargata. Fino a poche settimane fa Barack Obama non raggiungeva i 270 voti, era circa 240, mentre invece Romney era circa 210-215. A questo punto c'è stato un movimento al contrario. Ecco, complessivamente la corsa elettorale americana doveva essere, come dire, definita dalla vittoria in alcuni stati in bilico, i cosiddetti swing states, dall'Ohio alla Florida alla North Carolina, insomma ce n'erano una decina. In questo momento l'unico stato in cui Romney si trova in vantaggio la North Carolina, e se questi numeri saranno confermati il 6 novembre, il giorno delle elezioni, appunto Obama vincerà con 332 voti contro i 206 per Romney. Sarà quindi potenzialmente un landslide la vittoria di Barack Obama, perché se la maggioranza di questi stati incerti andranno a lui, a quel punto, aggiungendo tutti gli stati che già votano per lui, che sono per esempio la California, New York, stati molto importanti, beh, quella di Obama, che sembrava una corsa difficile, potrebbe diventare una vittoria piuttosto netta. Ecco, non solo, ma uno degli stati in cui si è trovato in vantaggio all'improvviso è il Wisconsin, cosa molto imbarazzante, perché il Wisconsin è lo stato di Paul Ryan. Paul Ryan è il candidato alla vicepresidenza di Mitt Romney, era stato scelto proprio perché avrebbe dovuto aiutare il candidato alla presidenza negli stati del Midwest e nel Wisconsin in particolare, che è uno stato molto importante, ma per ora così non è stato. Come reagiscono i repubblicani? Sentiamo Paul Ryan. Ecco, in un'intervista alla stazione radiofonica di Reno, Paul Ryan, vi ricordo il candidato alla vicepresidenza, ha spiegato che il punto di questa maldestra affermazione di Romney è che durante la presidenza Obama è aumentata la dipendenza del governo e al tempo stesso la stagnazione economica. Insomma, Ryan cerca un po' così di moderare, di dire che in fondo Romney non voleva dire esattamente quello che poi è stato interpretato dalla stampa, e dice: il nostro piano, il piano Romney-Ryan, vuole aiutare gli americani a rendersi indipendente dagli aiuti governativi. Sentiamo Romney. This is the worst economic recovery America has ever had. Looking forward to a second Obama term. Questa è la peggiore ripresa economica che l'America abbia mai avuto. Solo il mio piano potrà funzionare. Quindi i repubblicani stanno cercando di riportare il dibattito sulla questione economica. Il problema è che per la prima volta anche sul fronte economico i sondaggi portano Obama in vantaggio rispetto a Romney. America 24. Attenzione, attenzione, perché come mi è successo l'altro giorno ci sono dei banchieri, dei personaggi che ritengono invece che Mitt Romney abbia ancora delle forti probabilità di ribaltare la situazione. Perché? Beh, quello che mi dicono è che in genere questi sondaggi, le opinioni dei giornalisti che vivono nelle grandi città, non riflettono lo stato d'animo di coloro che invece vivono nelle zone rurali, che sono magari dei contadini bianchi, che sono degli operai bianchi, cosiddetti rednecks, i quali non sopportano Obama, e si tratta di valutare quale sarà l'impatto al 6 novembre di questo gruppo piuttosto esteso negli Stati Uniti d'America. Il commento che ho avuto è: ma sì, in fondo Romney dice delle cose che sono delle verità, alla gente piace ascoltare delle cose sincere. Quando lui dice in Medio Oriente sarà difficile raggiungere un accordo per la pace perché ognuno resterà sulle sue posizioni, lui dice una cosa molto reale, secondo questo signore, che poi è il banchiere Joe Perella che abbiamo incontrato l'altro giorno. E dunque c'è un che di rinfrescante, piuttosto che promettere delle cose che la gente vuole ascoltare ma che poi non si verificheranno, è meglio invece avere una posizione più onesta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Due delle voci più influenti nel mondo dell'hip hop hanno annunciato ieri un prossimo tour degli Stati Uniti. Si tratta di Nas e Lauryn Hill, che partiranno alla fine di ottobre per una serie di concerti in 10 città americane. Di Nas e Lauryn Hill, If I Ruled the World. Gusto, your luck though, I didn't know till I was drunk though. You weak cats are played out, get robbed and laid out. Gambino turned snitch, I got the right out. 96 ways I made out, Montana waited for F-E-L-L-A. Verbal's get spray, dip detaching, jump out the range, empty out the ashtray. A glass of Zay, making mad castles, clay, red dot plots. Murder schemes, 32 groups I hung. Regulate with my never 17 rocks, clean from one ring. Yo, let me let y'all people know one thing. There's one life, one love, so there can only be one king. Do without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind the waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì, una settimana che sarà occupata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla visita del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Goodbye and get going.